Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dalle pagine del settimanale Domenica, Diego Marconi commenta l'ultimo libro di Gianni Vattimo. Nel suo piccolo ma interessante libro On Bullshit, tradotto in italiano col titolo di Stronzate, il filosofo Harry Frankfurt distingue il bullshit dalla semplice menzogna. Chi mente nasconde o altera quella che crede essere la verità e quindi ha un'opinione riguardo a qual è la verità. Invece al bullshitter, a chi parla a vanvera, non importa affatto se quello che dice sia vero o falso. Gli importa soltanto di impressionare e persuadere il suo uditorio. Secondo Frankfurt, che scrive a metà degli anni Ottanta, la crescita esponenziale dei bullshit è legata alla diffusa convinzione che, in una società democratica, ciascuno sia chiamato ad esprimere la sua opinione, per quanto incompetente, approssimativa e casuale, e all'espansione del circuito mediatico, che sollecita l'espressione di molte opinioni. Ora, bullshit è, grosso modo, ciò che la filosofia e il discorso pubblico dovrebbero diventare, secondo l'ultimo libro di Gianni Vattimo, Addio alla verità. Un collage abbastanza ben organizzato ma inevitabilmente un po' ripetitivo, di pezzi d'occasione già dispersi in varie sedi giornalistiche. Dice infatti Vattimo che la norma del discorso non è la verità, ma il consenso. Ciò che si deve perseguire è una condivisione comunitaria che non dipende dal vero e dal falso degli enunciati. All'incirca, quel che fa il bullshitter secondo Frankfurt. Vattimo è persona intelligente ed intellettualmente onesta e si fa da sé alcune obiezioni immediate. Che dire, ad esempio, della diffusa convinzione che la libertà sia la possibilità di proporre una verità contraria all'opinione comune? Come potrà Socrate aver ragione contro la città intera che lo condanna? Secondo Vattimo, il profeta isolato potrà solo aspirare a creare a sua volta una comunità consensuale. Diceva Ernst Bloch che la sola differenza tra il pazzo e il profeta sta nella capacità del secondo di creare una comunità. Ma le comunità consensuali non sono necessariamente quel granché. Anche il reverendo Jones e Satana Manson ne avevano create. E che dire delle società che, reduci da esperienze di dittatura o violazione dei diritti umani, cercano di sapere che cosa è accaduto davvero, la verità fattuale su chi ha fatto che cosa? Per Vattimo, il loro bisogno di verità non avrebbe senso se non fosse motivato da un bisogno di giustizia. Resta tuttavia che di verità si tratta, non di consenso intorno ad una qualche illusione collettiva. E come motivare, infine, lo scandalo che ci suscitano le menzogne dei politici, come le bugie di Bush e Blair sulle armi di distruzione di massa? Quelle bugie ci scandalizzano perché sono a fin di male. Se fossero a fin di bene, per esempio per ridurre il costo dei farmaci anti-AIDS in Africa, ci andrebbero benone. Ma allora sono bugie? Le armi di distruzione di massa c'erano o non c'erano? Quali argomenti porta Vattimo per motivare una concezione della filosofia e del discorso pubblico di così spettacolare implausibilità? I soliti a cui ci ha da tempo abituato l'ermeneutica di tradizione nietzsche-heideggeriana. Anzitutto le implicazioni autoritarie della verità. Dove c'è una verità, c'è qualcuno che la conosce meglio degli altri, il Comitato Centrale, il Papa, i Sapienti. E queste autorità saranno inclini a ricavare norme liberticide da quella che ritengono essere la natura delle cose. In secondo luogo, se c'è un modo in cui le cose stanno, non siamo liberi. Le ontologie oggettivistiche legittimano un ordine storico e sociale in cui la libertà e l'originalità dell'esistenza umana vengono cancellate. In terzo luogo, anche nel caso paradigmatico delle verità scientifiche, ciò che viene fatto passare per verità non è altro che interpretazione. Ci sono i famosi paradigmi di Kuhn, metodi, criteri, modelli, ereditati da una tradizione con cui affrontiamo il mondo e che riflettono i nostri interessi. Ma la ragione principale per rifiutare verità e oggettività, dice Vattimo, è etico-politica. Se ci fosse la verità, la nostra esistenza di soggetti liberi non avrebbe alcun senso e saremmo sempre esposti al rischio del totalitarismo. È facile obiettare che i totalitarismi sono sempre stati inclini a negare sistematicamente anche le verità più ovvie. Forse Vattimo confonde la verità con le bugie dei potenti. Non mi metterò qui a confutare questi argomenti. mi limiterò a segnalare una singolare incoerenza. Nel capitolo dedicato al futuro della religione, in realtà del cristianesimo, Vattimo sostiene ragionevolmente che la Chiesa cattolica non dovrebbe prendere la mitologia cristiana come se fosse una descrizione della realtà alternativa a quella delle scienze, perché se presa come tale, quella mitologia è continuamente smentita dalle scienze. Ma dice anche che l'impatto ateistico della scienza si combatte rifiutando le pretese di obiettività e quindi di verità della scienza naturale. Ma se la scienza non ha pretese legittime di verità, bensì è solo un'interpretazione come un'altra, perché la Chiesa non dovrebbe opporle, con pari titolo, la sua descrizione alternativa della realtà? Sembra che la seconda strategia, negare che la scienza sia vera, tolga motivazione alla prima, evitare di presentare la mitologia cristiana come un'alternativa alla scienza, e viceversa. Se la visione del mondo cristiana non è in competizione con la scienza, che ragione c'è di negare la verità della scienza? Insomma, i vescovi avranno il loro da fare a ricavare da Vattimo indicazioni strategiche precise. Vattimo pensa che, abbandonata la pretesa di cercare la verità e il concetto stesso di verità, ciò che la filosofia deve fare oggi sia interpretare il proprio tempo a partire da una tradizione paradigmatica, assunta con distacco critico, anzi, sospendendo anarchicamente la sua pretesa di definitività. La filosofia deve fornire un'interpretazione dell'epoca che mette in forma un sentire diffuso circa il senso dell'esistenza attuale in una certa società e in un certo mondo storico. L'ovvia obiezione che a questo modo il filosofo rischia di fare della sociologia da caffè è respinta, perché intrisa di specialismo oggettivistico, e in effetti, se non ci sono verità, non ci sono neanche competenze. Al contrario, quella che Vattimo stesso accetta di chiamare sociologia impressionistica è, secondo lui, l'erede dell'ascolto dell'essere di heideggeriana memoria. Dalla foresta nera al bar sport. Beh, tutto sommato è un passo avanti. Meglio le amabili e in sé spesso condivisibili sparate libertarie, anti-identitarie e anti-imperialiste di Vattimo che le oscure, a volte un po' sinistre, elucubrazioni del profeta di Meskirk. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Diego Marconi dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Nei giorni scorsi, alcuni vandali hanno profanato la tomba di Totò, nel cimitero di Santa Maria del Pianto a Poggio Reale. Non è la prima volta e non c'è da meravigliarsi, scrive Enzo Del Rico sulle pagine del Corriere. Sorprendersi che qualcuno abbia profanato le tombe di Totò ed Enrico Caruso nel cimitero monumentale di Santa Maria del Pianto risulta un ipocrita esercizio di stile, lo stesso che puntualmente fa da corredo a vicende del genere. Sarebbe una notizia se qualcuno rispettasse, amasse, custodisse quelle tombe. Scempio, vandalismo e spregio rappresentano l'ordinaria amministrazione nell'unica città europea dove la plebe è ceto dominante, forte ormai di un'egemonia che plasma la vita quotidiana. La plebe non onora il padre, ma ossequia il potente. Non conosce simboli, ma si inchina ai vessilli. Altro fa il popolo, figlio di una vocazione produttiva, frutto di un territorio dove si alleva un destino, germoglio di una cultura, civica ancora prima che letteraria, condivisa. Il popolo difende la sua città, non la offre in pasto al re di turno. Coltiva le radici invece di strapparle. Tutto questo manca a Napoli, che non è stata e non è una metropoli industriale, che non è stata e non è una roccaforte del terziario, che non è stata e non è una capitale del turismo internazionale e che dunque non ha un popolo. Se ne intravide la sembianza a Bagnoli all'epoca dell'Italia Sider, quando lo stabilimento siderurgico voluto da Francesco Saverio Nitti sfregiò un panorama tra i più belli del mondo, ma regalò una identità a migliaia di napoletani. Poi più nulla. Stretta fra la feroce masnada dei Lazzari e l'indolente borghesia delle professioni, orfana di una classe imprenditoriale non foraggiata dal denaro pubblico, Napoli ha consegnato per decenni le chiavi della sua sopravvivenza al ceto medio, arruolando negli uffici statali, vedi alla voce clientelismo, e assegnandogli di fatto il compito di smorzare lo spirito barbarico della plebe, trasformandola in un fenomeno folcloristico, rendendola innocua. Oggi quel ceto medio si è impoverito, è scomparso. I suoi figli non contengono l'onda d'urto della plebe, ma ne fanno parte. Ecco la nuova terribile livella di Napoli, l'annebbiamento del ricordo, l'eclissi della storia, il contagio della violenza. E per una città non c'è morte peggiore di questa. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Enzo Del Rico, Profanata la tomba di Totò, è la plebe, non il popolo, di Napoli. Dal Corriere della Sera, del 3 giugno.